gli speciali di Radio 24. Cari ascoltatrici, cari ascoltatori, siamo insieme questa sera per questo speciale. Continuano con questo speciale e gli speciali di Radio 24, che con oggi ha seguito per molte ore, quindi continuiamo in questo momento dalle 21 alle 23 con questa puntata, diciamo, ampia, dedicata soprattutto a quello che sta succedendo nel centro Italia e in particolare in Abruzzo. Sono ore terribili, lo sapete, perché si sono sovrapposte in modo incredibile questi due eventi eccezionali, quindi delle nevicate che non si vedevano dagli anni 60 e poi, come se non bastasse, delle forti scosse di terremoto che ci sono state ieri, le più forti, 4 scosse con la magnitudo oltre 5 gradi. E poi tutte le scosse che si sono susseguite, un centinaio, 200 fino a oggi. Come se non bastasse, però, tragedia nella tragedia, il martoriato Abruzzo ha avuto anche questo dramma di questo hotel Rigopiano, vicino Penne, che è stato praticamente travolto, dicono i soccorritori, spazzato via da una valanga enorme che è caduta ieri sull'albergo, che era un resort bellissimo, sulle pendici del Gran Sasso in Abruzzo, e le forti scosse di terremoto, probabilmente questa contemporaneità di questi eventi eccezionali, hanno fatto sì che la valanga cadesse con questa scossa di terremoto enorme, tanto da spostare addirittura, si dice, di 10 metri questo albergo. Quali sono le ultime notizie? Sono che si parla di, dovevano esserci una trentina di persone in tutto tra ospiti e personale. Si parla, e adesso c'è, saluto anche la mia collega Raffaella Calandra. Ciao Raffaella. Ciao Roberta, a te e ai nostri ascoltatori. Allora, finora mi pare che l'assessore all'ambiente e alla protezione civile dell'Abruzzo Mazzocca avesse parlato di una trentina di persone, forse anche 35, che dovevano essere tra, appunto, dicevo, personale dell'albergo e ospiti nell'hotel, e 4 sarebbero i morti, 2 i superstiti. Però vedevo che Curcio, il capo della protezione civile, più volte ha detto nelle agenzie, ha parlato di 2 morti. Allora, come sempre, bisogna fare una premessa, che stanno lavorando in condizioni davvero al limite del proibitivo, come diceva ieri Curcio. È stata un'odissea per raggiungere nella condizioni notte, complicatissime. Allora, e poi c'è anche una suddivisione di competenze e di ruoli. Il capo della protezione civile Curcio, ma anche Titti Postiglione, la responsabile delle ufficio delle emergenze, sentiremo in un passaggio di oggi la conferenza stampa, continuano a dire noi facciamo riferimento soltanto ai numeri della prefettura, perché è la prefettura, diciamo, la responsabile, diciamo, in questo momento su questo fronte, e quindi continuano a dire che le vittime accertate sono 2. In realtà poi filtra dalle informazioni dai soccorritori che sono sul posto che sarebbero già 3 invece, e un quarto corpo e sarebbe stato individuato ma non ancora estratto da questo grande cumulo di neve, detriti, con tutto questo masso di montagna che a questo punto c'è al posto dell'albergo. Che infatti era. Avrete visto durante la giornata delle immagini veramente terribili di queste stanze sventrate dalla neve. E i soccorritori, addirittura leggevo che alcuni hanno pianto, alcuni di loro, tra i vigili del fuoco, protezione civile, guardia di finanza, perché ci hanno messo ore e ore per arrivare lassù, insomma sulle pendici del Gran Sasso, e quando sono arrivati hanno trovato soltanto un cumulo di macerie. Io intanto vi ricordo subito che, a parte la pagina Facebook di Effetto Notte per voi, per i vostri commenti, c'è il numero verde questa sera aperto, che è 800 24 00 24. Se volete intervenire, dire quali sono le vostre sensazioni. C'è anche in realtà questa polemica sui soccorsi. Vedevo poco fa il prefetto di Pescara che ha detto: in realtà noi siamo intervenuti subito, appena abbiamo avuto, già c'è stato lanciato l'allarme. Poi torneremo su questo aspetto, però al di là di tutto, quali sono le vostre riflessioni? Se volete anche mostrare, esprimere solidarietà a chi sta passando, le popolazioni di quelle zone, in particolare l'Abruzzo, ma con il maltempo e il terremoto se la passano male anche le Marche, l'Umbria, parte del Molise, parte del Lazio. Se volete appunto far sentire le vostre voci, 34, scusate, questo è il 349-238-6666, il numero per gli sms, se volete, oppure il numero verde 800-24-0024. Prima, Raffaella Calandra, hai citato Titti Postiglione, che oggi era appunto anche lei, fa parte della Protezione Civile, in questo vertice con il capo Curcio. Sentiamo cosa ha detto a proposito, per esempio, delle utenze elettriche, che questo è stato un problema di giorni. Sull'energia elettrica gli ultimi aggiornamenti continuano a darci un trend positivo che se non intervengono altri fattori o questioni tecniche che al momento non prevediamo ci porteranno nel corso della fine di questa giornata ad annullare, ci auguriamo, ma comunque a ridurre drasticamente il numero di disalimentazioni nelle Marche e a ridurre anche in maniera consistente il numero di utenze disalimentate in Abruzzo. C'era anche questo vertice, naturalmente, il commissario Errani, che sempre a seguito delle polemiche, delle critiche, vi dicevo, nei confronti dei soccorsi, della Protezione Civile, sentiamo che cosa ha detto. Chiunque di fronte ad una emergenza con queste caratteristiche, per alcuni versi inedita, terremoto, cinque scosse, la neve, francamente credo che chi ha a cuore il paese sa che non è il momento delle polemiche. Devo dire che non sono sorpreso, di questo mi dispiace, non sorprendermi. Ci sono momenti, al di là di come la si pensi politicamente e al di là degli interessi che ciascuno di noi ha, ci sono momenti in cui il paese deve dare il meglio di sé. E credo che questa sia la cosa più importante. Una cosa simile ha detto anche il Presidente del Consiglio Gentiloni oggi, che sentiremo dopo, però siamo in contatto col nostro Daniele Morini, che dovrebbe aver raggiunto proprio quella zona così impervia a causa appunto delle tonnellate di neve che sono cadute, del terremoto, delle macerie. Daniele. Sì, in questo momento siamo a Penne, ormai da metà pomeriggio circa, al palazzetto dello sport di questa cittadina arroccata sulle colline sopra Pescara, arroccata direi sulle nevi in questo momento. Perché la neve che è caduta qui intorno è davvero tantissima. Daniele, scusa se ti interrompo, spieghi magari a chi sta ascoltando, perché un po' viene citata Penne, un po' Farindola per quanto riguarda l'hotel di Rigopiano. Ci spieghi che attinenza c'è tra questi due paesi? Esattamente, siccome a Farindola è praticamente molto molto difficile arrivare, il coordinamento dei soccorsi, il posto avanzato, come lo chiamano in gergo di Protezione Civile, è stato istituito nel palazzetto dello sport di Penne, appunto. Che è lì vicino, però. Esatto, è una 19-20 chilometri da Farindola e a una venticinquina, perché si vanno sommati poi 5 chilometri in più per arrivare a Rigopiano, dove c'è l'hotel tristemente famoso ormai. Ecco, qui praticamente arrivano tutte le squadre e possiamo testimoniare che in queste ore abbiamo visto arrivare veramente squadre di ogni forza dell'ordine, dai vigili del fuoco ai carabinieri al soccorso alpino, guardia di finanza. Arrivano qui, prendono ordini di servizio da quello che è il coordinamento istituito dalla Protezione Civile e dalla prefettura di Pescara e poi si dirigono secondo gli scaglioni, secondo gli ordini di servizio, appunto si dirigono su verso Farindola e verso l'hotel Rigopiano. Abbiamo visto proprio ora passare soccorso alpino e speleologico con gli sci, perché sapete che si può raggiungere, i primi che l'hanno raggiunto praticamente all'alba, poco prima delle prime luci dell'alba, sono stati proprio degli sciatori del soccorso alpino e speleologico, poi uomini della guardia di finanza. Solo con mezzi cingolati o tipo motoslitte o con gli sci si può di fatto raggiungere per i soccorsi il luogo. Tra l'altro non molto tempo fa c'è stata un'ulteriore slavina sulla strada che conduce appunto da Farindola all'hotel Rigopiano, tant'è vero che l'esercito si è mobilitato, è partita una colonna proprio da qui, da Penne, una colonna di mezzi pesanti per cercare di disostruire proprio la via per arrivare il più possibile vicino all'hotel. Di fatto i giornalisti vengono tenuti lontani perché c'è scavata nella neve con le turbine, c'è solo un'unica via di accesso e di uscita, quindi intasare quella via con mezzi che non sono strettamente necessari non è consentito in questo momento. Quindi Daniele, tu non hai avuto modo, comprensibilmente da quello che dici, di riuscire a parlare direttamente con qualche soccorritore? Con i soccorritori sì, perché appunto sono le squadre, si danno il cambio proprio dove siamo noi ora, lo stesso, esatto, a Penne, lo stesso vice ministro dell'interno Filippo Bubbico è passato qui da noi per fare un punto sia ovviamente di coordinamento più importante che poi il punto stampa con i giornalisti, e ha confermato un po' anche lui questo balletto di cifre purtroppo sulle vittime, perché come avete voi detto giustamente in studio si è dato un dato di 4, poi si è tornati un po' indietro, di fatto ecco il dato accertato è di 2 vittime per ora che sono state appunto accertate e dichiarate, però come dicevate una terza e una quarta di fatto sì. Nel passaparola che c'è tra i soccorritori vengono date si già. Si continua a vedere anche dalle agenzie. Senti, Daniele, interrompo un secondo, cominciamo a far passare anche qualche telefonata di qualche ascoltatrice, ascoltatore al 800 24 00 24. C'è Maurizio da Monza Brianza. Pronto? Maurizio. Sì, pronto? Ciao, buonasera. Sente? Sì, buonasera. Benissimo. Senta, no, io ho solo una perplessità. Ho sentito dalle varie trasmissioni nel pomeriggio, in giornata, sono stato abbastanza collegato, che i turisti che erano ospiti dell'hotel erano già pronti per evacuare. Mi chiedo come mai questo grosso ritardo nella pulizia della strada e dello spazzaneve che li avrebbe potuti portare in salvo probabilmente. Da quello che è emerso nel tardo pomeriggio, così mi sembra di capire. Maurizio, ti ringrazio, perché questa è un po' la polemica, almeno per quanto riguarda questa tragedia nella tragedia, al di là poi delle questioni che riguardano altri paesi isolati, quali sono questioni un pochino diverse. Qui, Raffaella Calandra, effettivamente si dice che le persone erano pronte per evacuare dopo la prima scossa di terremoto, perché già per il maltempo volevano andarsene, poi c'è stata questa scossa e erano pronti ad aspettare lo spazzaneve per andarsene. Poi sembra che siano stati ritardati questi, prima avevano dato appuntamento per le 15, poi hanno rimandato le 19, purtroppo in mezzo a queste ore è successo e questa valanga è venuta giù e ha sepolto tutto. A questo punto, visto quello che drammaticamente grazie, Maurizio, è successo, questo sarà il punto centrale che andrà a essere chiarito anche nell'inchiesta che ahimè è stata già aperta per omicidio colposo, doverosamente, visto che ci sono, e obbligatoriamente, visto che ci sono dei morti. Allora, quello che abbiamo potuto ricostruire anche attraverso il racconto ad esempio del padre di una delle persone disperse, quello che è stato ricostruito è questo, che gli ospiti dell'albergo e il personale che ci lavora avevano già le valigie pronte, avevano già saldato i conti e infatti erano nella hall pronti a lasciare l'albergo, ma si aspettava questo spazzaneve che liberasse la strada perché ci sono 3 metri di neve in una situazione in cui l'intera area, abbiamo raccontato, sono giorni che raccontiamo di paesi isolati, di frazioni isolate senza elettricità, di muri di neve che bloccano l'uscita dalle case e che è diventata una sorta di trappola per moltissime persone anche delle varie frazioni. Ad esempio a Campotosto soltanto con l'elicottero sono riusciti ad evacuare una frazione isolata perché le strade erano impossibili e molte persone in altri luoghi con gli sci addirittura ci hanno raccontato anche ieri di sentirsi come in trappola, come topi in queste case bloccate da muri di neve. Lo diceva la vice sindaca nella tua intervista. Senti, io sentirei allora il padre della responsabile della SPA che c'era all'interno del centro hotel, benessere, no? Signor Nicola, sì. Siamo tutti all'oscuro, non sappiamo niente di niente proprio. Sua figlia lavora all'interno dell'albergo? Sì, lavora al centro benessere, sì. Lei quando è stato l'ultima volta che l'ha sentita? Ieri sera alle 4, un messaggio, solo un messaggio perché i telefoni non funzionavano. E le aveva raccontato di questa neve forte che c'era? Sì, ma perché tu era bloccato, loro da ieri mattina chiedevano che dovevano essere sbloccati, ma... hanno risposto che c'erano altre priorità e hanno abbandonato a pulire tu. E l'albergo funzionava completamente, quindi anche nel centro benessere? Sì, sì. E sua figlia? Stava lì apposta perché funzionava pure, cioè è responsabile del centro benessere mia figlia. Sua figlia era responsabile del centro benessere, ho capito. Sì, stavano a 20, a 25, più 8 dipendenti, 8 o 9 dipendenti. Voi adesso siete lì davanti all'albergo in attesa di notizie? No, all'albergo non ci fanno salire, siamo qua davanti alla televisione, siamo a casa con la speranza che viene qualche bella notizia, ma qua non sappiamo niente. Ci sono molte altre persone del paese che lavorano lì e di cui adesso sì, non si hanno notizie? Di cui tanti giovani sono scesi, mentre mia figlia doveva stare là, perché giustamente se c'era qualcuno che doveva stare alla SPA, doveva essere lei a fare quello che doveva fare. Era preoccupata sua figlia quando l'ha sentita lei l'ultima volta? No, perché la sua è tranquilla, non è che... Era una posizione che non si poteva mai pensare a una valanga che potesse colpire l'albergo. Però le aveva detto che avevano chiesto di essere, diciamo, liberati? Sì, dopo il terremoto, perché la sua ha fatto forte, giustamente, hanno chiesto aiuto, hanno chiesto che volevano riscendere. C'erano 3 metri di neve, come scendevo. E quindi però si sentivano come prigionieri di quella neve per il terremoto? Sì. Ecco, questo l'avete sentito, ho intervistato Raffaella Calandra, quindi il padre di una della gestora, di quella della responsabile della SPA che c'era all'interno dell'hotel Rigopiano. Il sindaco, poi lo sentiremo, dice anche che ci sono un po' poche speranze a questo punto, ma insomma, finché sono dati per dispersi, li diamo per dispersi. Adesso c'è la viabilità. Chiedo ancora un po' di pazienza al nostro Daniele Morini, che è lì proprio a Penne, vicinissimo a Farindola. E poi ci sono gli ascoltatori, c'è Gino da Foggia e gli altri all'800 24 00 24, numero verde al quale potete chiamare qui fino alle 23. Gli speciali di Radio 24. C'era un primo piccolo problema tecnico. Raffaella, tu volevi concludere prima di sentire Daniele Morini? Sì, per concludere l'elemento del discorso dei ritardi, presunti, diciamo, ritardi dell'arrivo dei soccorsi. Allora, a questo racconto si aggiunge il racconto che uno degli ospiti, Giampiero Parete, ha fatto ad un amico, Quintino Marcella, un ristoratore di Silvi Marino, un professore, gli ha raccontato la scorsa notte di questa situazione in cui si trovavano e poi ha raccontato di questa montagna che aveva preso il posto dell'albergo. Dice, ho visto cadere la montagna sopra l'albergo. Perché lui, fortunatamente, ricordiamo, c'era la moglie che aveva il mal di testa e lui che aveva lì la moglie e 2 figli, era uscito in macchina per cercare delle pastiglie per lei. Esatto, no? Questo è il racconto che lui ha fatto ricostruendo gli ultimi minuti, ha detto appunto di essere uscito per questo, mentre l'altro sopravvissuto si trovava nel locale caldaia. Ma il punto dei ritardi è questo, i presunti ritardi, cioè che il professore, questo amico Marcella, dice di aver avvisato tutti, soprattutto in prefettura, di quanto gli veniva segnalato da Rigopiano, ma che di non essere stato fino in fondo creduto. In realtà la prefettura e il viceprefetto dicono di aver attivato immediatamente, diciamo, dei soccorsi. La questione è anche che adesso bisogna chiaramente accertare i tempi, perché non è indifferente un orario piuttosto che un altro sull'arrivo di uno spazzaneve. Chiaro. In una situazione del genere, però è anche vero, e anche questo sarà un elemento da verificare che già un po' serpeggia nelle polemiche, che alcuni dicono ora con la scomparsa delle province non abbiamo più i mezzi per far fronte a questo genere di situazioni, per cui bisogna arrivare, aspettare l'arrivo di mezzi da altrove. Daniele Morini, poi arriva un messaggio adesso di un ascoltatore che dice: tra liberare la strada dell'hotel, dei VIP e altre emergenze, hanno scelto di mandare lo spazzaneve in altre emergenze. Chi poteva immaginare che poi l'hotel sarebbe finito sepolto? Adesso non credo che abbiano fatto differenze tra VIP e meno VIP, non so neanche, Daniele, se fosse così. Certo, era un resort, una bellissima struttura, però Daniele... Sì, assolutamente. Beh, sì, la struttura era assolutamente bellissima, insomma. È un posto magnifico, abbiamo visto le foto, all'aperto, no? Con dietro esatto. Questo bosco, questo verde. Certo, non è facile capire da chi sta magari a un telefono, dietro a un telefono, in un ufficio, quali sono le priorità reali. Lo abbiamo visto noi stessi oggi, percorrendo in lungo e largo l'Appennino, prima nelle zone terremotate tra Visso e Pieve Torina, poi scendendo fin qua giù. A volte ci sono situazioni che sfuggono al controllo, i piani neve causa fondi perché, come dicevate voi, anche cambiati gli assetti istituzionali, i piani neve non sono poi sempre rispondenti al, no, alle reali possibilità dei comuni, dei territori, eccetera. Riagganciandomi un attimo a quello che diceva il papà della sì. ragazza che lavorava all'hotel, vi posso aggiornare in tempo reale sul fatto che la prefettura, di fatto questo è il dispositivo che ha attivato, censisce, fa un censimento di quelli che sono i familiari che arrivano qui a Penne, esattamente nell'ospedale di Penne, e poi li cerca di rimandarli a casa nell'impossibilità appunto di avvicinarsi ulteriormente alla zona dell'hotel. Immaginiamo l'angoscia naturalmente di tutti questi familiari, no? Che stanno cercando, esatto, di avere notizie o di avvicinarsi. C'è un via vai di familiari, chi arriva, chi riparte, chi si allontana per un po', chi torna, avido e desideroso in qualche modo di avere notizie in più, però purtroppo finché non ci sono appunto notizie, i familiari non vengono ricontattati, lo vengono via via che ci sono novità o c'è la necessità di capire magari se una persona aveva un certo indumento, un certo bagaglio, un certo giaccone, insomma anche in questo si cerca così di avere qualche indizio per poter operare in loco, ed è veramente difficile lavorare in quelle condizioni, è veramente difficile. Ci sono anche grandi rischi per i soccorritori, diciamo anche sì, questo. Certo, sì, abbiamo grandi visti rischi. Infilarsi in questi, come possiamo chiamarli, canali, cunicoli scavati con le turbine, con le pale, forse quando sono così vicino. Daniele, tu puoi rimanere ancora qualche istante con noi? Poi ci sentiamo anche qua. Dopo. Grazie. Volevo sentire Gino da Foggia, stanno chiamando diverse ascoltatrici e ascoltatori, lo ricordo il numero verde che avete a disposizione questa sera, che è 800 24 00 24, e siamo insieme in questo speciale dalle 21 fino alle 23. Gino? Buonasera Gino. A tutti i radioascoltatori. Io sono un affezionato di Rai News 24, quindi da stamattina, da ieri. Quindi di Radio 24 sei, capisco chi è quella. Ma il discorso è questo, che ognuno deve rimboccarsi le maniche e non, diciamo, si prendono degli ospiti e si critica perché non è arrivato subito quello, perché non è arrivato subito l'altro, perché non conviene ognuno di dare quello che può dare. Io sono capace di dare le mie forze, vado ad aiutare, sono capace di dare i miei soldi, do i soldi, io sono capace di pregare, prego, anche perché l'uomo ha delle capacità spirituali inestimabili. Certo, Gino, si sente il tuo pathos emotivo, Gino, e su questo chiaramente ognuno faccia quel che può. Poi nei prossimi giorni già li potete trovare, adesso non li abbiamo subito a disposizione, anche i numeri o anche i codici dove mandare degli aiuti. Per il momento forse magari ancora troppo presto, ma mi sembra che già stia cominciando la raccolta, già ieri si parlava dei soldi già raccolti dalla Protezione Civile dal 24 agosto, insomma al momento però mi sembra che la cosa più urgente sia mettere in sicurezza le persone, in questo caso dell'hotel di Rigopiano in Abruzzo, di cercare di capire insomma se c'è speranza di trovare ancora qualcuno sopravvissuto. Lorenzo D'Ancona, 800 24 00 24. Sì, buonasera. Tra l'altro D'Ancona, Lorenzo, lì com'è la situazione? Allora, io ieri ero a casa e ho sentito perfettamente tutte e quattro le scosse. A linea d'aria saranno una settantina di chilometri dall'epicentro. Sì, da Montereale. Sì. Io però chiamavo per un altro motivo, perché la mia abitazione si trova lungo il corso del fiume Musone. E a monte di questo fiume c'è la diga di Cingoli e è passato molto in sordina tutti gli allarmismi, chiamiamoli così, che sta facendo il sindaco di Cingoli sulla agibilità della diga, che durante le precedenti scosse ha subito molte lesioni. Quindi il sindaco ha lanciato vari appelli, stai dicendo? Esatto. Io questa cosa che sta facendo il sindaco è passata sempre un po' sottotono. Io non vorrei che succedesse un Vaillant 2. Spero che le istituzioni prendano dei provvedimenti. So che hanno già fatto dei rilevamenti e che sono state già hai fatto bene a dirlo. Adesso stiamo parlando di altro, tu dici giustamente la prevenzione, perché poi da una cosa si passa a un'altra tragedia. Su questo fai bene a tenere alta l'attenzione e anche con il tuo sindaco a, insomma, anche a informare. Adesso però ti ringrazio Lorenzo, dobbiamo tornare su queste ore drammatiche per l'Abruzzo in particolare, ma appunto anche per le Marche, per parte dell'Umbria, del Lazio. Tra l'altro, Raffaella Calandra, tu avevi sentito anche proprio il sindaco, no? Sì, che era proprio lì, il sindaco di Farindola, che era proprio lì al limite, diciamo, del perimetro dove i soccorritori stanno scavando all'interno dell'albergo, e oltre ad averci purtroppo confermato che il numero dei bambini dispersi non era 3, di come si diceva, ma ne risultano, ahimè, 4, ha incontrato appunto uno dei sopravvissuti, un manutentore dell'albergo. Uno dei due. Sì, ha incontrato Falsetta, Fabio Salsetta, che è un appunto originario di Farindola, che appunto ha condiviso con lui il suo racconto degli ultimi minuti prima che la valanga travolgesse tutto. Sentiamo allora il racconto di Ilario Lacchetta. Sindaco, ci sono anche dei bambini all'interno dell'albergo, vi risultano? Purtroppo sì, sono 4. 4 bambini? 4 bambini, sì. Sono figli di ospiti, di turisti che erano lì, persone del posto? Sì, 24 ospiti, di cui 4 bambini. Ecco, invece le persone che sono state già tratte in salvo, lei le conosce? Un ragazzo è il manutentore dell'hotel, quindi lo conosco bene, della vicina Penne, e un altro invece era un ospite, mi sembra, di Montesilvano. Ha avuto modo di incrociarli, di sentire il loro racconto? Sì, il manutentore ci ho parlato anche stamattina, chiaramente cioè, cercare di dargli un po' di sollievo, visto che anche la sorella sotto le porte macerie. E che cosa le ha detto? Ha detto che non si è accorto di nulla, è stato un brevissimo lasso di tempo silenzioso, la cosa che lo ha sorpreso. Silenzioso, e non si è ritrovato travolto all'interno del locale caldaia, che è un vano in cemento armato che l'ha protetto da tutto, insomma. Quindi lui era al di fuori per caso? Immediatamente liberato si ha provato a cercare aiuto e a sentire se ci fossero voci, ma non ha trovato solo l'altra persona che era in difficoltà come lui, e gli altri non. Par di capire dai soccorritori che chiamano le persone ma non ricevono per ora risposte, segnali, giusto? Esattamente, sono anche azioni di vicinanza dei vigili del fuoco, ma senza risultati. Sembra piuttosto provato naturalmente il sindaco. Sì, c'erano anche difficoltà chiaramente di linea, per questo sentivate un audio in questo modo. Le voci sono particolarmente importanti in questo momento, perché i soccorritori nel buio e nel freddo terribile continuano a chiamare, chiaramente, e i soccorsi andranno avanti per tutta la notte. Questo perché, come ha detto anche il capo della Protezione Civile, c'è comunque speranza, anche se chiaramente col passare delle ore le probabilità si riducono di trovare altre superstiti, però la speranza c'è, perché altrimenti non sarebbero anche i soccorritori a mettersi loro stessi in pericolo, se non pensassero di poter trovare ancora delle persone vive. E le voci in questo momento sono fondamentali, perché in questo buio della notte, appunto, dell'hotel Rigopiano, i soccorritori cercano, chiamando i nomi, chiamando le persone, di cogliere anche con l'uso, servendosi dei cani, qualsiasi segnale, risposta. Per ora risposte non ce ne sono state, però ogni tanto i cani sembrano, diciamo, mandare segnali di aver trovato qualche presenza. Raffaella, salutiamo brevemente adesso Daniele Morini, che ricordiamo è lì sul posto, appena vicinissimo a Farindola, poi ci ricolleghiamo dopo. Daniele, a proposito di quello che diceva Raffaella, che quindi i soccorritori naturalmente andranno avanti delle ore ancora a lavorare, proprio perché vogliono essere certi che a un certo punto non si rischi di lasciare lì qualcuno che invece è vivo, insomma, che può essere salvato, no? Assolutamente sì, no, come dicevo prima, c'è un turnover continuo. Stanno rientrando, ad esempio, proprio davanti ai nostri occhi. Daniele, adesso ti sentiamo un po' male, forse. Immaginiamo, sì, che la linea non sia proprio di quelle più limpide. No. più che altro sta passando un mezzo cingolato dei vigili del fuoco che stanno tornando a giudicare dalla quantità di neve, dalle zone del disastro, appunto, c'è questo turnover tra le forze dell'ordine. Qui a Penne, al palazzetto, stiamo aspettando anche il prefetto di Pescara, che arriva per darci degli aggiornamenti, è annunciato a breve, tra qualche minuto, quindi magari. Benissimo, allora poi ci ricolleghiamo con te, Daniele, così ci racconti che cosa ha spiegato il prefetto. E prima di questa pausa vorrei sentire sempre il numero verde che è a vostra disposizione questa sera in questo speciale dalle 21, iniziato da mezz'ora circa fino alle 23, stiamo insieme per parlare di quello che sta che è successo e che sta succedendo, sperando appunto, come si diceva, che i soccorritori, che con grandi difficoltà, mettendosi in pericolo, stanno cercando di capire se ancora qualcuno si può salvare. Andiamo avanti fino alle 23, quindi se voi volete far sentire le vostre voci, le vostre riflessioni, anche la solidarietà, no? In questi momenti si qualificano gli italiani anche con tutti i volontari che stanno affluendo verso quelle zone, non soltanto lì verso l'hotel Rigopiano, ma anche in gli speciali di Radio 24. Roberta Giordano sempre con voi in questo speciale di Radio 24, come ce ne sono stati altri nel corso della giornata qui in radio, per seguire quello che sta succedendo, questa doppia emergenza che c'è in buona parte del centro Italia, tra queste nevicate copiose che non si sono viste appunto dal 60, e poi di nuovo l'incubo del terremoto che è tornato, e in particolare la tragedia più grande, questa dell'hotel Rigopiano di Farindola in Abruzzo, sulle pendici del Gran Sasso, con questa slavina enorme, un'enorme valanga che è venuta giù sull'albergo ieri. Avevo fatto giusto a tempo ieri sera in chiusura di Effetto Notte, di solito è lo spazio di Effetto Notte questo, ma stasera appunto c'è questo speciale di 2 ore, a dirvi che si parlava di soccorsi che andavano verso questo hotel, ancora non si capiva tutta la gravità della vicenda, e invece lì due superstiti ci sono finora. Si parla da 2 a 4 morti, in prefettura parlano di 2 accertati, però sempre di più le agenzie parlano di 4 morti. Una trentina dovrebbero essere gli ospiti e il personale, in tutto una trentina, 35 persone, ancora il numero non è certo. E purtroppo pare che le speranze si affievoliscano man mano che passano le ore, però i soccorritori, che sono arrivati con grandissima fatica e grande sforzo anche durante la notte, hanno continuato a lavorare e stanno continuando a lavorare, perché voi immaginate queste tonnellate e tonnellate di neve, hanno dovuto scavare dei cunicoli, e lì pare proprio che l'albergo, dicono, vedendolo dall'alto, sia stato spazzato via, nel senso che la neve è caduta sventrando le stanze. Però c'è ancora qualche speranza, quindi si continua ad andare avanti. Vi ricordo che per i vostri interventi c'è il numero verde 800 24 00 24, perché in queste occasioni in cui l'Italia si stringe, in cui appunto gli italiani si riconoscono anche per questo senso di solidarietà, di vicinanza, che magari nei giorni normali dimenticano, magari prevale l'indifferenza, però in questi momenti di solito si dice di noi italiani che diamo il meglio. Mi scuso con Ilaria, prima è caduta la linea. Ilaria da Roma, 800 24 00 24, grazie Ilaria. Che cosa volevi dire? Buonasera, Ilaria. Innanzitutto vorrei ringraziarvi perché vi ascolto sempre con grande interesse, le vostre trasmissioni sono di grande qualità e soprattutto anche voi estremamente professioniste. Poi vorrei in questo momento... Grazie Ilaria, anche, grazie a voi che ci ascoltate, avete voglia anche di intervenire. Solidarietà anche per queste persone, queste famiglie che stanno vivendo veramente un dramma in attesa di notizie, che purtroppo col tempo, come dice lei, sicuramente non sono probabilmente positive. Io vorrei però riportare un pochino l'attenzione sulla zona di Amatrice, di Accumoli, dove c'è stato il primo forte sisma, e anche quello questo del 24 è stato molto agosto. Anomalo, certamente. Mi sono trovata nella zona casualmente per motivi di lavoro e da allora non mi sono più allontanata nei limiti di quello che possa fare una cittadina italiana, aiutata anche da un gruppo spontaneo. Però vorrei capire, alla luce dei 5 mesi che sono trascorsi, qual è la politica del commissario Errani, che mi sembra che spenda parole un pochino forse inutili, perché si sente soggetto alle critiche, ma per esempio in quella zona lì vorrei capire le sue dichiarazioni relative a chi, per arrangiarsi, ha cercato di rimediare una casetta in legno, visto che l'inverno arrivava, visto che il freddo c'è, per poter uscire dalle roulotte. Ci sono famiglie che hanno delle roulotte del Friuli che hanno i tetti bucati, ci piove dentro. Mi sembra lecito che la gente cerchi di trovare un'alternativa a una tenda, a una roulotte, e si vedono annunciare che la Guardia di Finanza verrà a fare una visita per abuso edilizio. Francamente io come cittadina sono molto perplessa, da quello che ho sentito un quarto d'ora fa, sempre dalle parole del commissario che parla di essere criticato. Io non credo che gli italiani criticano quando dopo 5 mesi c'è stata una formidabile raccolta di fondi, c'è stata una formidabile gara di solidarietà. Parla di 28 milioni, sì. Ecco, e ho visto non solo la generosità economica, ma le posso garantire che la gente è generosa su tutti i fronti. Sì, ma è quello che stiamo aiutato, infatti, Ilaria, in tutte le maniere. Però non capisco sinceramente qual è il piano di intervento del governo nella figura del commissario in una cittadina come Amatrice, che poi con quello del fine ottobre e queste ultime scosse ieri è caduta ancora la torre. Che cosa pensano di fare? Non si può dire alla gente 20 casette dopo 6 mesi e le prossime a giugno. Non è ragionevole. Nessuno Ilaria, può... sì, c'è anche questa richiesta, per esempio, di dare poteri straordinari ai sindaci perché possano agire, perché possano prendere decisioni, insomma... vediamo, vi abbiamo fatto sentire quali sono stati gli interventi oggi di Errani, della Protezione Civile. Ilaria, ti ringrazio intanto, ed è giusto anche far sentire la propria voce anche da questi luoghi, perché anche da Amatrice, per l'appunto, anche se non è l'hotel di Rigopiano, però sappiamo distrutta, è diventata il simbolo del terremoto del 24 agosto e di quelli successivi, ed è giusto effettivamente che le persone che lì sono abbiano tutti i mezzi, i soccorsi, l'assistenza di cui necessitano in tempi più brevi possibili. Prima di sentire Paolo da Teramo, sempre al numero verde per voi che è 800 24 00 24, vorrei salutare Domenico Angelone. Buonasera, che è geologo del Consiglio Nazionale dei Geologi, al quale vorrei chiedere come è stata possibile, se era prevedibile anche questa valanga enorme che ha sepolto l'hotel di Farindola, professore. Ma guardi, in questo momento la priorità spetta ad altre analisi, e sicuramente prima di tutto c'è da capire se c'è la possibilità di salvare delle vite, visto che la situazione ancora non è ben definita. Su questo siamo d'accordo e lasciamo quindi, infatti, al loro lavoro. Sì, appunto, voglio dire che sulle cause che hanno generato questo fenomeno, insomma, credo che ci sia tempo per capire meglio. Sicuramente dalle immagini, insomma, dalle prime immagini che abbiamo visto, non si tratta solo di neve, quindi vedo che c'è anche del detrito, quindi sicuramente il fenomeno ha interessato anche una parte di versante, e quindi dice capire... crollata anche parte della montagna rocciosa, non soltanto la neve che c'era sopra. Una parte di detrito, bisogna capire se è stato il carico nivale che ha trascinato con sé del detrito, oppure se è stata una frana che si è attivata proprio a causa sia per il terremoto sia per l'eccessivo carico di neve. Sicuramente una zona così morfologicamente abbastanza delicata, vedendola insomma in maniera distratta, direi, perché la copertura nevosa nasconde anche quelle tracce che noi geologi riusciamo a leggere molto bene sul territorio, e quindi anche a riuscire a in qualche maniera a tracciare un solco tra le zone più a rischio dal punto di vista del dissesto e quelle meno a rischio. Quindi sicuramente ci saranno delle concause, e quindi se dovesse esserci una causa principe, che è quella legata a una vocazione del territorio, alla franosità, in quel caso si andrebbe in qualche maniera anche ad individuare qualche responsabilità che va al di là del fenomeno parossistico o addirittura di quello meteorologico. Cioè lei intende, professor Angelone, anche il fatto di aver costruito proprio in quella zona, così ai piedi della montagna? Ma guardi, noi geologi conosciamo benissimo quali sono le situazioni a rischio. Lo sappiamo, esistono anche, devo dire, delle carte che aiutano e che traducono in maniera grafica quelle che sono le tracce inequivocabili che il territorio ci dà per individuare appunto le zone a rischio sia sismico e sia anche da frana e addirittura anche da valanga, perché anche in quel caso lì c'è una possibilità di prevenire. Però per questo dicevo, la priorità spetta ad altro ora, e quindi andare ora a ricercare le cause è prematuro, anche perché dobbiamo aspettare che la neve si sciolga per capire un po' cosa è successo. Naturalmente, professor Angelone, anche se è chiaro che quando avviene un evento così tragico ed eccezionale è abbastanza normale chiedersi, poi lasciare il tempo naturalmente alle indagini, come si diceva, agli studi, però chiedersi come è potuto accadere, no? Una cosa così terribile. È una domanda lecita ed è giusto che venga data una risposta a questa domanda, ma è ancora più giusto, e questo devo dire, mi accodo anche un po' alla critica che faceva la signora che ha parlato prima, sì, da Roma, credo, l'area da Roma. Insomma, noi con il decreto di ricostruzione, con l'ordinanza l'ordinanza 11 del 2017, la parola geologia non è mai scritta, non è mai pronunciata in quell'ordinanza, eppure se noi vogliamo fare prevenzione, parliamo di terremoti, ma parliamo di alluvioni, parliamo di dissesti idrogeologici in genere, dobbiamo imparare che il territorio ci dà delle indicazioni. Noi sappiamo benissimo le aree che sono soggette alle massime amplificazioni, cioè dove i terreni rispondono malissimo alle sollecitazioni sismiche, sappiamo quali sono le faglie attive che sono quindi capaci di rilasciare terremoti, sappiamo quali sono le zone che potenzialmente possono venire giù come fenomeni franosi. Ma la fate sentire a sufficienza la vostra voce, perché anche Lorenzo, l'ascoltatore, prima ad Ancona parlava delle dighe sopra un fiume che è lì abbastanza vicino alla sua zona, dove c'è il sindaco che lancia appelli da tempo sul rischio, no, che queste dighe possano rompersi, venire giù. Non siamo noi che non facciamo sentire la nostra voce. Noi geologi la nostra voce la facciamo sentire, però purtroppo molto spesso è inascoltata. Ma no, in questi momenti è molto ascoltata, devo dire. Ecco, quando si va a ricercare le cause dei disastri, le cause del dolore. Però non è ascoltata a sufficienza quando poi nei periodi di pace bisogna scrivere le norme, bisogna scrivere le ordinanze, bisogna prendere delle decisioni dove ricostruire, come ricostruire. In quel caso lì noi non veniamo ascoltati, veniamo assolutamente ignorati e veniamo addirittura sottovalutati nella nostra azione, che credo sia un'azione a favore della popolazione, e con le nostre competenze riusciamo in qualche maniera a dare delle indicazioni che sono veramente e potrebbero essere veramente risolutive. Domenico Angelone, quindi io la ringrazio, ricordo geologo del Consiglio Nazionale dei Geologi, e la preghiamo tutti quindi di farvi sentire con forza, e che davvero dopo questa ennesima tragedia, che ricordiamo però è avvenuta anche per la sovrapposizione di due eventi straordinari, eccezionali, però che si possano man mano evitare, e che soprattutto gli appelli e gli allarmi siano ascoltati con serietà da chi di dovere. Grazie professor Angelone intanto. Io chiedo a loro invece, sia come radioascoltatori sia come giornalisti, di darci una mano a farci sentire, perché poi fondamentalmente noi non stiamo sponsorizzando la nostra causa, stiamo sponsorizzando la causa di tutta la cittadinanza, di tutta la popolazione. Grazie professor Angelone, grazie, buonasera, buon lavoro. Buonasera. Adesso aggiorniamo chi sta viaggiando, e poi sempre al numero verde, ancora le vostre telefonate liberamente fino alle 23 800 24 00 24, per far sentire la vostra voce da tutte le parti di questa Italia che si stringe appunto nei momenti più difficili, che in altri momenti, come diceva anche il professore, magari più distratta la politica stessa, le istituzioni, e anche con le vostre sensazioni, i vostri pensieri, le vostre riflessioni. Fiorella da Macerata, ci sarà Paolo da Teramo e poi gli altri all'800 24 00 24. Gli speciali di Radio 24. Ritorniamo insieme, Roberta Giordano sempre con voi in questa puntata speciale di due ore dalle 21 alle 23. Di solito c'è lo spazio di effetto note, ci sono sempre io con voi, però ci stiamo dedicando tutta la radio oggi, il palinsesto, alle emergenze, più di un'emergenza nel centro Italia, stritolata in questa morsa tra il maltempo, tonnellate di neve che sono cadute, veramente un evento straordinario, e in più purtroppo la terra che è tornata a tremare nel centro Italia, in Abruzzo, le Marche, in Umbria, in parte del Lazio. del Molise, e poi stiamo seguendo passo passo, per quelle che possono essere gli aggiornamenti in una situazione così difficile, la tragedia dell'hotel Rigopiano di Farindola sulle pendici del Gran Sasso, sul versante pescarese, che è stato travolto ieri nel pomeriggio in realtà da un'enorme valanga che si è staccata dalla montagna e ha sepolto completamente l'albergo. Addirittura i soccorritori che sono arrivati lì dopo ore e ore di difficoltà hanno addirittura detto che è stato spazzato via, che è stato spostato addirittura di 10 metri. Dalle TV, dalle immagini, sono visti dei cunicoli che con grande sforzo, anche rischiando la propria vita, la propria incolumità, i soccorritori hanno scavato in queste parti dell'albergo dove ancora ci si riesce a infilare. Due per il momento sono i superstiti. Uno faceva parte di un uomo del personale dell'albergo, era uscito per rifornirsi di materiale per le stufe, e un altro è un signore, un 35enne, che poiché la moglie che era dentro l'hotel con i due figli aveva mal di testa, era uscito dall'hotel per andare in macchina a prendere le pastiglie. In questo modo si è salvato ed è stato il primo a lanciare l'allarme. Le persone, gli ospiti più il personale, sarebbero una trentina, 35 persone, dice l'assessore all'ambiente e alla protezione civile Mazzocca dell'Abruzzo, e si teme insomma che le vittime possano essere diverse. Si parla anche di 4 bambini che sono dispersi, 26 sarebbero dispersi per il momento, e 4 o 2 i corpi recuperati, perché ancora non c'è la certezza assoluta. Vedo un'agenzia, vediamo se ci sono degli aggiornamenti. È un soccorritore che dice: una buona metà dell'edificio è stato spalmato dalla valanga in una vallata sottostante, l'altra metà era fatta di macerie con sopra la neve. Lo ha detto Luigi Piccirilli del Soccorso Alpino Abruzzese, di ritorno dalle operazioni in corso. Per noi c'è un caso molto difficile, anche perché di solito siamo abituati a operare con la neve e non con le macerie, dice. La situazione è drammatica, ma la speranza c'è sempre, perché anche in casi di valanghe, per così dire, normali, ci sono stati dei salvataggi che potevano sembrare insperati, e noi speriamo con loro. E c'è il numero verde per voi, anche per le vostre di riflessioni, di sensazione, 800 24 00 24, numero verde quindi gratuito che potete fare fino alla fine dello speciale alle 23. C'è Fiorella da Macerata. Fiorella, eccoci qua. Salve. Buonasera Fiorella. Buonasera. No, io volevo dire che io ho una casetta a Castel del Monte, quindi sì, lì vicino, e lì la neve sempre altissima, cioè 3-4 metri, cioè lì è normale avere tutta quella neve, perché è normale. Ma io mi chiedo, ma quell'albergo costruito lì sotto la montagna era normale? Cioè è normale? Ne parlavamo prima col geologo. In realtà mi pare che avessero avuto anche, fosse in corso una causa di questo tipo, ma che poi fossero stati, che in realtà questa cosa fosse stata archiviata, fossero stati assolti. E quindi leggevo che in giro per il paese, oltre a dare con i responsabili, i vertici di questo hotel, gli auguri di Buon Natale e Buon Anno, dicevano anche: e siamo stati assolti, quindi la situazione è conclusa felicemente, quindi erano contenti anche di questo. Sicuramente a vederlo così, Fiorella, sembrava, oltre che una zona bellissima, con un panorama stupendo, però proprio sotto le pendici di questa montagna. Adesso sono tutte cose poi da accertare, quindi al momento non possiamo dire granché, Fiorella. Comunque ti sei posta questo dubbio che probabilmente si pongono in molti. Grazie Fiorella da Macerata. Come sta Macerata in questo momento? Una città bellissima, benissimo, tra l'altro. Benissimo, benissimo. Nelle Marche. Grazie Fiorella, salutaci Macerata allora. Per il terremoto che c'è stato, la zona di Tolentino, San Severino, ecco qua. Grazie Fiorella. Grazie, buonasera. Paolo da Teramo. Paolo, quindi torniamo nell'Abruzzo. Paolo, ci sei? Buonasera. Eccoci. Buonasera, buonasera a tutti. Buonasera a te. Io chiamo da Controguerra, ecco, un piccolo paesino a 20 chilometri da Ascoli Piceno, sì, per rendere l'idea. Nelle Marche, allora. In Abruzzo noi sì, siamo. Sì. Ascoli Piceno non è nelle Marche? Sì, Ascoli Piceno, sì, Controguerra, Abruzzo. Ah, ecco, siete proprio al confine, ho capito. Per rendere l'idea. Sì. Allora, praticamente io volevo illustrare la situazione che qui nel versante abruzzese, diciamo, al confine con le Marche, tutta la Val Vibrata, è alquanto disastrata. È disastrata la tua zona, stai dicendo, Paolo? Molto, siamo da 3 giorni senza corrente elettrica, senza linee telefoniche. senza internet, senza acqua addirittura. Sì, c'è un grosso problema questo delle utenze elettriche. Oggi la portavoce, anzi una delle dirigenti della Protezione Civile, Titti Postiglione, diceva che presto anche questa situazione rientrerà, insomma. Però so che ci sono anche delle richieste di danni per questa mancanza di elettricità in questi giorni. Ci sentiamo tra poco, adesso c'è una pausa, poi vi aggiornerò brevemente e andiamo avanti comunque fino alle 22:00 24:00 24. Poi c'è anche Gianni da Roma. Il segnale orario vi è offerto da Legno Edilizia, Fiera di Verona dal 9 al 12 febbraio. Sono le 22. GR24, il sole 24 ore. La notizia in primo piano è sempre la tragedia dell'hotel Rigopiano in Abruzzo. Le speranze di trovare qualcuno vivo si riducono, dice il sindaco di Farindola. Tra gli ospiti anche 4 bambini. Si parla di 12 dipendenti e 24 ospiti, fra i quali appunto 4 bambini. 26 persone per il momento vengono date per disperse. La situazione in tutto l'Abruzzo resta critica. Gli uomini dei soccorsi lavorano da ore senza soluzione di continuità. Il governo sulle emergenze, il Consiglio dei Ministri che c'è stato oggi, a quanto si apprende, dovrebbe domani mattina alle 11 procedere con provvedimenti fuori sacco, cioè eccezionali, con l'estensione degli stati di emergenza nei territori colpiti negli ultimi giorni da nuove scosse di terremoto e dai danni dell'eccezionale ondata di maltempo. INPS, rapporto sul precariato, rallenta la corsa dei buoni lavori, in aumento i licenziamenti disciplinari. Nei primi 11 mesi del 2016 i licenziamenti complessivi sono stati poco meno di 562.000, in aumento del 4% sullo stesso periodo 2015, lo rileva l'osservatorio INPS sul precariato, e si registra un boom dei licenziamenti disciplinari passati da 53.056 a 67.374 con una crescita del 27%. Vaccini, via libera al piano nazionale, stesse regole, stesse risorse per tutte le regioni. Alla prossima conferenza Stato-Regioni verrà stabilito il riparto dei fondo sanitario nazionale e ci sarà un documento di linee guida per le regioni per accompagnare il piano vaccini, ad essere certi che il calendario vaccinale parta allo stesso modo e con le stesse regole e possibilità di accesso su tutto il territorio nazionale. Questo l'ha annunciato la Ministra della Salute Beatrice Lorenzin al termine della riunione della conferenza Stato-Regioni. E poi, per quanto riguarda l'estero, le truppe del Senegal entrano in Gambia. Truppe senegalesi che sostengono il presidente eletto del Gambia, Adama Barrow, hanno attraversato il confine con il Gambia in Africa, si stanno dirigendo verso la capitale Banjul, dove risiede il presidente uscente che si rifiuta di lasciare il potere nonostante abbia perso le elezioni. E poi, per quanto riguarda Julian Assange, manterrà la promessa di consegnarsi agli Stati Uniti. Il fondatore di WikiLeaks è deciso a mantenere la promessa di consegnarsi alle autorità americane dopo che Barack Obama ha concesso la grazia alla talpa di WikiLeaks, cioè Chelsea Manning. Lo ha detto l'attivista australiano nel corso di una conferenza stampa via social media dall'ambasciata dell'Ecuador a Londra. Bene, tra pochissimo, adesso c'è una pausa, riprendiamo lo speciale sino alle 23. Gli speciali di Radio 24. Andiamo avanti, Roberto Giordano sempre con voi. Abbiamo iniziato alle 21 questa sera, al posto della tradizionale puntata di Effetto Notte, uno speciale di 2 ore dalle 21 sino alle 23. Abbiamo quindi ancora un'ora per stare insieme e con tutto il palinsesto di Radio 24 abbiamo seguito naturalmente da ore quello che sta succedendo in alcune regioni, alcune zone in particolare del centro Italia, tra strette nella morsa, tra neve eccezionale e terremoto, e in particolare stiamo seguendo quello che è successo in questo hotel sulle pendici del Gran Sasso, l'hotel Rigopiano a Farindola, questo piccolo paese. Il sindaco poco fa ha precisato, se non sbaglio a Porta sì, che nell'albergo c'erano 12 dipendenti e 24 ospiti, fra i quali 4 bambini. Per il momento si danno 26 dispersi, 4 le vittime, anche se si parla di 2 vittime accertate, ma sempre di più i siti e le agenzie parlano di 4. e poi sono due superstiti per il momento. Per il momento, ma come dicevamo prima, i soccorritori con grande fatica, con grande abnegazione, anche stanno continuando a lavorare, a scavare con anche le squadre specializzate, con i cani, per sentire anche qualche minimissimo flebile segnale, perché dicono la speranza è davvero... al di là della retorica l'ultima a morire, perché in molte altre situazioni di valanghe dicono ci sono stati dei salvataggi insperati, quindi lo speriamo veramente tutti con tutto il cuore. Per voi, per intervenire, c'è sempre il numero verde naturalmente a vostra disposizione, per far sentire la vostra voce con le vostre riflessioni, con quello che pensate insomma di quello che sta accadendo. 800 24 00 24 c'è Gianni da Roma. Sì, buonasera. Buonasera Gianni. Sì, volevo fare una considerazione, ma perché non vengono impiegati in modo più importante in primis l'esercito, ma anche corpi speciali che magari, come ad esempio i paracadutisti, no? Che praticamente in queste fasi potrebbero essere d'aiuto e potrebbero anche intervenire in poche ore, essendo perfettamente addestrati e avendo anche tutto l'occorrente tecnico necessario per intervenire in queste zone. Cioè, non riesco a capire perché questo tergiversare. Guarda, questa cosa, semmai Gianni, la chiederò direttamente a uno dei responsabili della Protezione Civile delle Marche, perché non so risponderti, anche se c'è anche un ascoltatore, Tonino da Civitavecchia, che dice rinunciamo per due mesi alle missioni all'estero, mandiamo subito giovani militari ad aiutare chi vive tra le macerie, un metro e mezzo di neve, sarebbe una vera missione di pace senza fucili, un modo per lo Stato di stare fisicamente vicino alle persone. Chiederemo se è una scelta che non si poteva fare diversamente, se appunto diciamo ci sono corpi specifici che devono intervenire in queste situazioni e non altri. Gianluca, comunque insomma, poi Gianni, scusami, sentiremo un po' qual è la spiegazione in questo senso. Voi continuate con le vostre telefonate al numero verde 800 24 00 24. Adesso ci colleghiamo però con il sismologo dell'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia, Gianluca Valensise. Buonasera professore. Sì, buonasera dottore. Dottore. Allora, a proposito di questa sovrapposizione incredibile, no? di eventi eccezionali come sono stati appunto queste tonnellate di neve che sono cadute, e come se non bastasse ci sia aggiunto il terremoto, si diceva ieri che probabilmente, purtroppo, intanto che è stata una sequenza piuttosto particolare questa di forti scosse ieri, 4 scosse oltre i 5 gradi di magnitudo, no? E che purtroppo però non finiranno, continueranno queste scosse, anche se magari più meno forti. Beh, dunque, che ci saranno ulteriori repliche di piccola magnitudo, comunque sensibili, è scontato, questo non lo dicono tutte le statistiche del mondo. La vera domanda è se ci saranno scosse forti come quelle di ieri o addirittura più forti. Noi da alcune settimane, ormai da oltre due mesi, avevamo messo sotto osservazione quella zona, proprio perché era una zona in cui non c'era stato un rilascio sismico né nel 2009 a seguito della sequenza dell'Aquila né nel 2016 a seguito della sequenza cominciata da Matrice, quindi era rimasta questa zona franca, e poiché i terremoti di solito non fanno sconti a nessuno, ci si aspettava, e poiché sapevamo che non c'era stata attività storica in quella zona, ci aspettavamo che qualcosa sarebbe successo anche lì. Ieri i terremoti hanno colmato parzialmente questa lacuna, ancora resta dello spazio libero eventualmente per altri terremoti abbastanza forti, speriamo che non succedano, però ecco, con i terremoti non vale sperare troppo che non succedano, perché prima o poi qualcosa arriva, quindi è solo una questione di tempo purtroppo. Ma in Italia le zone maggiormente sismiche a rischio, a parte quell'area che abbiamo capito tutti, insomma anche chi non se ne intende di queste cose, diciamo, l'Italia lo è un po' tutta, tranne forse poche aree, dottor Valensise? Sì, in Italia ci sono tante aree ad elevata pericolosità, per il rischio è un'altra cosa, perché il rischio è la pericolosità moltiplicato quello che c'è sopra il territorio, quindi parliamo di pericolosità. Tutta la catena appenninica, che è lunga oltre 1000 chilometri dal confine fra Toscana e Liguria e lo Stretto di Messina, è una grande zona sismica, per fortuna circoscritta, perché è solo in cima all'Appennino che succedono queste cose, non succedono a Pescara o a Roma, succedono in zone che sono abbastanza ben identificate in cima alla catena. Poi ci sono altre zone sismiche minori, fra molte virgolette. Abbiamo visto la Bassa Modenese del 2012, abbiamo visto il Friuli, abbiamo visto il Belice, abbiamo visto il Gargano, quindi ce n'è per tutti i gusti. Però l'Appennino oggettivamente è il più a rischio. Secondo lei, dottor Valensese, c'è sufficiente prevenzione? Siamo sufficientemente attrezzati in Italia? No, la risposta è secca, ovviamente no, noi fatichiamo addirittura a sapere che ci sono zone ad elevata pericolosità o a media pericolosità. L'esempio più drammatico l'abbiamo avuto proprio in Emilia nel 2012, perché dal 2004 c'era una nuova mappatura della pericolosità sismica in Italia che poneva le zone della bassa modenese e bolognese tra le zone a pericolosità diciamo media. E la popolazione non sapeva nulla, le amministrazioni non sapevano nulla. Quando è arrivato il terremoto c'è stata questa strana situazione che noi abbiamo vissuto sulla nostra pelle, per cui sembrava che stessimo parlando della Luna. Invece, appunto, nella mappatura ufficiale della Repubblica Italiana, quelle erano zone a media pericolosità. Quindi, scusi, quando risaliva l'ultima, la mappatura più recente, diceva? Dunque, noi abbiamo rilasciato una mappa di pericolosità nel 2004, è andata in Gazzetta Ufficiale nel 2006 ed è diventata parte delle norme tecniche sulle costruzioni nel 2008, poi è diventata obbligatoria dopo il terremoto dell'Aquila, perché siamo in Italia e quindi tutto viene un po' rimandato. Però insomma, è dal 2004 che si sapeva che certe zone dell'Emilia avevano una pericolosità maggiore di quello che si era pensato in passato. Si sono sprecati degli anni, quindi quando è arrivato il terremoto del 2012 ha trovato sostanzialmente l'edilizia che c'era già prima. Questo in Italia si ripete in molte zone, c'è una mancata conoscenza del problema a cui consegue una mancata presa di precauzioni. Certo. Noi assistiamo attoniti a questo continuo stillicidio, perché ogni volta sembra che si scopra qualche cosa di nuovo e poi se si va a guardare sia quello che la pericolosità dice, sia semplicemente la storia dei luoghi, si capisce che tante cose si sapevano già, erano già successe. Questo è sconfortante da sapere, seppure appunto in questo momento la cosa più urgente sia salvare le persone, metterle in sicurezza, gestire l'emergenza, però poi dopo l'emergenza, lo si dice, si ripete fino alla noia in Italia, poi deve venire imparare la lezione e prevenire dove si può. Io intanto la saluto e la ringrazio, Gianluca Valensese, grazie intanto. Grazie a voi. Buona continuazione, grazie. Adesso invece ci è collegato David Piccinini, buonasera. Buonasera. Capo della Protezione Civile delle Marche. Sentiva a proposito della Protezione Civile che cosa diceva prima il dottor Valensese. Piccinini, cosa ne pensa? In realtà non sono intervenuto un pochino più in avanti. Lei è intervenuto un po' più in avanti? Sì, non sono riuscito a sentire. Ah, mi scusi. No, nelle ultime. Chiedo scusa. No, le ultime considerazioni, che diceva che, per esempio, per quanto riguarda i terremoti, certamente non si possono prevedere quando, come accadranno, eccetera, ma che c'è una mappatura, l'ultima dell'Italia, delle zone sismiche, che risale a qualche anno fa e che però alla fine, diciamo, c'è poco ascolto per questo, poca attenzione, poca concretezza. Ho un'opinione un pochino diversa, nel senso che il sistema di protezione civile si basa sulla prevenzione, la programmazione e il soccorso. La fase di prevenzione è tutto ciò che previsionalmente possiamo fare per capire un fenomeno, capirne la portata, capirne gli effetti, pianificare le azioni. Per cui siamo di fronte a dei fenomeni che sono molto più vasti rispetto al nostro vivere quotidiano e per cui è chiaro che siamo sempre, come dire, giochiamo sempre in difesa, sono troppo più grossi di noi, però stiamo avanzando nella loro conoscenza, nella loro ubicazione, nella loro mappatura, per cui ci sono dei passi e questi passi si fanno lentamente in funzione anche del progresso scientifico. Per cui questa fase previsionale si sta sviluppando tutti gli effetti, diciamo, su tutte le situazioni. Adesso vorrei fare l'esempio: noi abbiamo un piano per l'assetto idrogeologico che mappa le zone dove possono svilupparsi lavine e valanghe. Oggi abbiamo preso una decisione difficile, abbiamo evacuato l'abitato di Bolognola in relazione a questo. Prevediamo, cioè abbiamo una previsione di un evento e agiamo e programmiamo e l'azione conseguente. Riusciamo a farlo su tutto il territorio? Probabilmente no, però è quello che tentiamo nel nostro piccolo, come piccoli abitanti di questo pianeta. Dico una cosa, Piccinini, per quanto riguarda le Marche, visto che lei è capo della protezione civile della regione Marche, e la situazione qual è adesso? Perché naturalmente anche le Marche non se la passano bene, in questi giorni abbiamo sentito parlare di tanti centri isolati proprio a causa della neve, anche lì tante utenze senza elettricità, senza acqua. No. Io distinguerei una situazione proprio fattuale, cioè sì. Qui abbiamo zone, abbiamo circa 30.000 sfollati nelle Marche, 30.000 sfollati e abbiamo la sovrapposizione a questo tipo di situazione. Dovuti al terremoto dal 24 agosto, no? Sì, esatto, le repliche che si sono susseguite dal 24 agosto in avanti, quindi 30.000 sfollati, su questo territorio di 30.000 sfollati abbiamo una nevicata che insomma non dico che è storica perché spesso si presenta in questi modalità, però quindi è molto estesa tutta la provincia di Ascoli, la provincia di Fermo, parte della provincia di Macerata, molte frazioni irraggiungibili almeno se non con faticose operazioni di movimentazione e con turbine, in alcuni casi abbiamo dovuto usare l'elicottero, il soccorso alpino, per cui è chiaro che la situazione è difficile, però fortunatamente anche in questo caso siamo riusciti insomma a portare intanto tutti quanti in salvo e a raggiungere tutti quantomeno non con i mezzi ma con appunto gli uomini del soccorso alpino. Adesso l'operazione che stiamo portando a termine, probabilmente questa succederà entro la giornata di domani, cercheremo di arrivare su tutte le frazioni di tutti quanti i comuni. Senta, si può rispondere a questa domanda che faceva prima un ascoltatore a proposito, dice ma non si potrebbero utilizzare i paracadutisti, era Gianni era Paolo Gianni forse da Roma, non ricordo, non lo so se poi siano specializzati i paracadutisti nell'intervenire dove c'è neve. Poi un altro ascoltatore, Francesco da Civitavecchia, dice che io sappia reparti speciali di marina altamente specializzati possono essere utilizzati e sono utilizzati anche per calamità naturali. Adesso giusto, dottor Piccinini, per chiarire chi può intervenire e chi non può intervenire, penso che ci siano delle squadre speciali che siano quelle addestrate, il soccorso alpino, insomma, a seconda delle situazioni, no? Sì, allora, paracadutisti assolutamente no, nel senso che le zone dipende poi dopo in quale orografia, ovviamente un'orografia come quella dell'Appennino marchigiano è proprio impensabile, un'orografia molto complessa, poi dopo è condizionato alle condizioni, ma non solo, ma ci sono condizioni meteo avverse, quindi turbulenze assolutamente ingestibili, quindi no, è proprio un'operazione che non si mette prende in considerazione. Per quanto riguarda invece le operazioni di soccorso, vengono gestite soprattutto quando ci sono i mezzi aerei, da Vigili del Fuoco, che è personale talmente specializzato al quale insomma va tutta la nostra ammirazione, direi, e in combinazione anche con il soccorso alpino, che riesce a fare operazioni di calata su Vericello e quindi dopo di recupero aereo praticamente. Quindi io direi che l'utilizzo dei uomini della Marina, immagino che ci saranno uomini che saranno sicuramente adatti a fare questo, però in generale ci rivolgiamo ad altro quando questo altro non abbiamo. Grazie David Piccinini, grazie, ci fa piacere sapere che insomma nelle Marche un po' la situazione, l'emergenza è un po' più contenuta rispetto all'Abruzzo e speriamo, poi mi pare che le condizioni, le previsioni meteo diano un leggero miglioramento, speriamo almeno quello, no? Un pochino sì, speriamo che il rialzo termico non faccia, non provochi uno scioglimento repentino del manto. Mi faccia semplicemente dire che insomma, sentiamo una grande vicinanza con tutte quelle popolazioni che insomma, oltre da un punto di vista dell'evento meteorologico particolare, ormai subiscono da mesi insomma, uno stress pesante. pesante, psicologico fortissimo, tutto il nostro abbraccio e tutta la nostra insomma, siamo con voi. Certo. Tutti insieme, grazie Davide Piccinini, capo della Protezione Civile delle Marche, grazie. E intanto c'è in collegamento Cristian Labanti, che è del Soccorso Alpino Emiliano. Cristian? Sì, confermo. Dall'Emilia è arrivato lì in Abruzzo? Sì, a noi ci hanno attivato immediatamente dopo, quando è caduto l'evento Palanghivo, che ha travolto appunto l'albergo, e quindi siamo partiti in nottata e stamattina eravamo operativi qua in territorio. Che cosa ha visto, che cosa siete riusciti a fare finora, Cristian? Ma questa mattina diciamo che l'accesso è stato abbastanza difficoltoso, in quanto la neve era molto alta e c'è stata una seconda valanga che ha ostruito completamente il passaggio, per cui i mezzi non potevano più salire, per cui siamo dovuti salire con pelli, sci all'alpinismo e pelli, fino a raggiungere appunto l'albergo dove sono iniziate l'operazione di soccorso. Diciamo, di fatto noi non abbiamo fatto, abbiamo iniziato l'operazione di bonifica esterna dell'albergo, per vedere che non ci fosse nessuno all'esterno, travolto all'esterno, sì, esattamente. Facendo dei sondaggi spalla a spalla tutto il giorno, diciamo. Poi siamo scesi adesso, praticamente adesso. Ma Cristian, poi lei, tu, insomma, non so che darsi. Sì, sì. Dimmi. Rimani ancora lì? Rimani ancora? Sì. Domattina all'alba andiamo su di nuovo. Adesso fortunatamente la valanga è stata rimossa, quella che ostruiva il passaggio, per cui di fatto domattina con i mezzi molto presto andremo su e continueremo a fare attività che ci competono, diciamo. Senti, leggevo che diversi soccorritori dicono, insomma, le speranze non sono particolarmente consistenti di trovare ancora persone vive, però siccome in alcune situazioni di valanghe ci sono stati degli insperati salvataggi, noi la speranza la manteniamo accesa. È possibile la speranza, che qualcuno... Certamente, la speranza, cioè... Speriamo. Diciamo che ci sono le condizioni meteo qui che non agevano tutto. Ma continua a nevicare lì, Cristian? Ha smesso diciamo che adesso ha smesso nel tardo pomeriggio, per cui adesso le condizioni da domani dovrebbero migliorare leggermente. Oggi effettivamente ha nevicato tutto il giorno, in più si è chiuso molto, per cui è difficile anche i sorvoli, erano anche abbastanza difficili e quant'altro. Tenete duro, Cristian, e insomma la speranza è nelle vostre mani, proprio nel senso letterale del termine. Grazie Cristian. Grazie, arrivederci. Grazie. C'è Basilio D'Alecco, Anna Maria da Roma, sempre al numero verde 800 24 00 24. Intanto è tornata la nostra Raffaella Calandra. Rieccoci. Ciao Raffaella. E vedo adesso c'è anche qui un altro aggiornamento, si parla di un SMS. I clienti e le persone presenti all'interno dell'albergo erano spaventati per le forti scosse di terremoto e non tanto per il maltempo e per la neve abbondante. Ovviamente una slavina era inimmaginabile, ha detto un amico di Roberto Del Rosso, che è il titolare, no, di quel stanno emergendo tutti i racconti, diciamo, delle ore precedenti l'arrivo della valanga, quindi che ricostruiscono anche questo clima di impazienza, di paura. Forse è facile immaginare anche un po' di angoscia, anche se nessuno poteva immaginare una slavina del genere tra i clienti, quindi tra gli ospiti dell'hotel e del personale, cioè queste persone che erano lì spaventate da queste scosse di terremoto molto forti, che lì si erano avvertite in modo davvero forte, e che però erano prigioniere, diciamo, dell'albergo, anche se questo albergo fuori, appunto, no? Molto bello, per la neve che c'era fuori. Quindi anche questo è un messaggio, che uno scambio di SMS che tra il titolare dell'albergo, che è tuttora disperso, e un amico, perché in queste ore precedenti si segnalava e si richiedeva più volte appunto l'arrivo di questo spazzaneve che cercava appunto di liberare. Quindi insomma saranno tutti elementi che ricostruiscono il clima prima della valanga, diciamo. Raffaella, poi ci racconterai anche qualche storia delle persone, qualche storia che emerge, no? di alcuni di questi ospiti dell'albergo. Però ancora spazio alle vostre telefonate, visto che c'è appunto questa partecipazione. 800 24 00 24, Basilio D'Alecco. Sì, buonasera. Buonasera Basilio. Intanto volevo esprimere un po' di imbarazzo e di disagio, perché noi parliamo dal comfort delle nostre case al caldo, al sicuro e riflettere appunto insieme su queste vicende. Hai ragione, l'imbarazzo condiviso, ma d'altronde... è questo, è che appunto questa è una prima riflessione. La seconda riflessione, ho visto, io le vedevo oggi da alcune testate online queste prime, diciamo così, speculazioni sul fatto che questo hotel fosse o meno abusivo, eccetera, però secondo me sono speculazioni che in questo momento sono assolutamente sterili, perché ovviamente questa riflessione, sappiamo bene, purtroppo vale per tutto il territorio italiano, sappiamo bene qual è il nostro patrimonio edilizio e quali sono i nostri territori, e purtroppo speculare adesso su questa vicenda mi sembra alquanto sterile. Sì, direi, Basilio, senza speculare, cioè con cattiveria, sciacallaggio, eccetera, probabilmente quando succedono queste cose, e vedendo anche la posizione dell'albergo, uno magari se lo chiede. Al momento direi senza attaccare, senza fare delle affermazioni perentorie, può essere un dubbio. Però, come dici tu, in questo momento chiaramente l'emergenza è altra. Poi, nel caso, come diceva prima Raffaella Calandra, che è stata aperta comunque un'inchiesta per omicidio colposo, probabilmente rientrerà forse anche questo aspetto. Basilio, io ti ringrazio e chiedo a Raffaella. Sì, però c'era stata già anche un'inchiesta su questo. Infatti dicevo che però sono stati assolti. È stata un'inchiesta per abuso edilizio proprio, e però erano stati tutti assolti, sia il titolare che appunto tutte le persone che erano state coinvolte. Tanto che l'avevano scritto in questi cartelli in giro per il paese, oltre al buon Natale e buon anno, avevano detto siamo assolti, state assolti, quindi il caso, esatto, insomma, è chiuso. Esatto, esatto. C'è Anna Maria da Roma? Sì, buonasera, buonasera Anna Maria. A tutti quanti. Io volevo osservare che forse un'attività ricettiva come quella, se fosse stato dotato di un gatto delle nevi, almeno poteva scendere verso il paese e avvertire dell'urgenza e dell'imminenza di questa neve che gli impediva completamente di uscire. Quindi un processo inverso, anziché salire i mezzi di soccorso, se fossero stati dotati, e trattandosi di 1000 metri di altezza, forse un piccolo aiuto alle strutture operative del comune avrebbero potuto darlo, perché mi sembra che si stia innescando il meccanismo di colpevolizzare le strutture comunali, tipo il sindaco abbia differito l'invio dello spazzaneve su altri ambiti territoriali del comune. Ecco, tenderei a avere un po' di precauzione, perché è facile poter fare giudizi a posteriori, quindi le nostre analisi di tutti, mi metto anche io, che siano solo indicazioni di massima. Certamente. Però penso effettivamente che una struttura alberghiera di quella portata, un 5 stelle, forse aveva l'obbligo di tenere pulito almeno l'ambito nei primi 100-200 metri, perché mi sembra che nel nord Italia così funzioni. Anna Maria, strutture... scusami, sì. Non sappiamo bene poi nella dinamica della valanga se sia stata poi questa valanga a coprire anche tutto il resto, e magari prima un po' di pulizia c'era stata. Ecco, questo non lo so, non credo neanche tu, Raffaella Calandra, che sappia com'era precedentemente a questa slavina. No, prima della slavina la neve bloccava le strade, ed è la ragione per cui i clienti forse non riuscivano. La riflessione di Anna Maria, allora anche se, in se... questo momento, ad Ciao. Onor del vero, essere esperti di valanghe, come certo. dicevamo prima, dai nostri studi o dal nostro divano, non è, mi sembra, la situazione opportuna. Sono riflessioni, però uno si chiede effettivamente come mai una struttura del genere non avesse avuto un gatto delle nevi, che una volta che la neve era caduta un po' eccessivamente poteva, però sono tutte appunto, diciamo, così, che in una situazione del genere non so quanto avrebbe potuto risolvere, però sì. Come dire, bisogna capire se effettivamente una struttura di questo tipo può avere un mezzo di questo del genere. Allora, questi credo che siano degli elementi comunque che si chiariranno dopo, e sicuramente si è trattato comunque di un evento atmosferico eccezionale, tra l'altro ulteriormente rafforzato in negativo dal terremoto. C'è il nostro, poi c'è Alessandra da Teramo e le altre telefonate all'800 24 0024, siamo ancora insieme fino alle 23. Daniele Morini, ci ricolleghiamo con il nostro Daniele Morini, che è lì a sì, Penne, eccoci. Vicinissimo a Farindola. Ha parlato poi il prefetto, se non sbaglio. Daniele, tu aspettavi? Sì, aspettavamo il prefetto, in realtà sono arrivati poi lì al palazzetto sia il vice ministro che il prefetto stesso. Il prefetto ha preferito lasciare campo al vice ministro Bubbico. Dell'interno, Bubbico, esatto, che di fatto ha confermato quello che ci aveva già detto, di cui in parte avevamo dato conto, sia per quanto riguarda queste cifre ancora un po' ballerine da confermare, eccetera, eccetera, sia sul fatto che per tutta la notte continueranno comunque, la macchina dei soccorsi resterà attiva, insomma, per continuare a garantire ricerche e quant'altro sia necessario mettere in campo in quella situazione, ecco. Daniele, sentivamo prima un soccorritore e loro naturalmente vanno avanti con forza, coraggio e speranza. Tu rimarrai, immaginiamo, lì, sei stato inviato lì, Daniele, ancora per diverse ore, sperando che la situazione si sblocchi e con qualche aspetto, elemento positivo, no? Sì, restiamo qui in osservazione fino a, almeno a metà giornata di domani, poi vediamo se, insomma, ci sarà qualche cambio in corsa, anche perché non era previsto che arrivassimo fin qui e di fatto, insomma, siamo un po' sprovvisti, come dire, di mezzi di conforto. Immagino, che temperatura ci sarà? Che temperatura ci sarà lì, Daniele, a questo punto? Allora, diciamo che mentre la giornata di oggi era tutto sommato non freddissima proprio durante la giornata, tant'è vero che salendo su abbiamo notato molto disgelo, cioè la neve che si stava sciogliendo e che invadeva le strade, ma proprio come, quasi come forma di piccoli ruscelli, diciamo. Poi con il calare del sole la temperatura si è abbassata, e sicuramente siamo almeno a penne intorno allo zero o qualcosa di meno. Non oso immaginare che cosa accade sopra, insomma, dentro l'albergo la zona dell'hotel e a Farindola in generale, insomma. Daniele, non so se in questa mezz'ora che ancora ci rimane di speciale tu vuoi ricollegarti o pensi che a questo punto, se non ci sono grosse novità, dimmi tu, se no ti richiamiamo. Già, per il momento si è un po' esaurita un po' la carica delle news. Perché, quindi, appunto, se ci fossero, speriamo di esserci delle buone novità, ci fai sapere tu, altrimenti ci si riaggiorna poi. Siamo in contatto, sì, in questo senso. Grazie, grazie intanto a Daniele Morini. Ciao Daniele. Grazie. Allora, adesso ci prendiamo questa piccola pausa, poi c'è Alessandra da Teramo, altre telefonate di ascoltatrici e ascoltatori al numero verde 800240024, poi Raffaella Calandra ci tratteggia almeno qualche storia per sentirle anche più umani nella loro identità, alcune di queste persone, di questi ospiti, di questa parte del personale dentro l'hotel di Rigopiano. Tra pochissimo. Gli speciali di Radio 24. La vita delle persone e la salute delle persone, e quindi le frazioni isolate, le utenze elettriche, il recupero della viabilità. Naturalmente siamo impegnati contemporaneamente in tutte queste direzioni. Io chiedo a tutte le strutture dello Stato di moltiplicare i loro impegni. Penso che la dimostrazione di queste ore sia una dimostrazione che queste strutture ci sono presenti, sono impegnate. Chiedo alla politica di mostrare sobrietà, rispettando la difficoltà della situazione, l'impegno delle forze civili e militari che stanno lavorando e il dolore delle famiglie che hanno subito delle perdite. E questo avete sentito il Presidente del Consiglio Paolo Gentiloni, che oggi, a proposito delle polemiche che ci sono state, dice: cerchiamo di essere, insomma, sobri e di non avere reazioni inopportune. Stiamo cercando di raggiungere, Raffaella Calandra, il professore che ha ricevuto il messaggio, prima telefonata Quintino Marcella, no? Esatto. La prima telefonata d'allarme nel momento in cui la slavina ha travolto l'albergo e lui ha messo in moto, diciamo, i soccorsi, ma poi ha anche raccontato di non essere stato fino in fondo creduto all'inizio della gravità della situazione. No, sembrava che, diciamo, avesse risposto. Aspettiamo alla nostra telefonata. Niente, per il momento no, magari ci riproviamo tra poco. Intanto c'è Alessandra da Teramo, sempre al numero verde 800240024. Alessandra, sì, Alessandra, hai qualche viva voce o qualcosa del genere? Ho un ripetere. Se lo puoi levare meglio, perché ti sentiamo molto male. Così? Leggermente meglio, prova un po' a parlare. D'accordo, purtroppo qui la situazione... è veramente... Tu sei in Abruzzo, Alessandra, Teramo, no? Sì, sono a Teramo. Sì. Non riesco a rintracciare mia mamma dall'una di oggi pomeriggio. Ma perché? Tu ed esattamente dove sei? In casa tua? Sì, sì, io sono a casa mia, l'ho accompagnata oggi, non riuscivo a portarla con la macchina, ho usato un taxi. Ma dove l'hai accompagnata tua mamma? A casa sua, perché volevo andare a casa sua. Ma è molto lontana da te casa sua? A qualche chilometro, domani mattina ci andrò. Ma non riesci a raggiungerla perché? Per una questione di linee telefoniche, dici? No, perché è impossibile usare l'auto. Ah, in quel senso, però vi sarete sentiti al telefono? No, non riusciamo. Ma credo che sia soltanto appunto per un problema di collegamenti, no? Se tu l'hai accompagnata a casa e stava bene, no. Io volevo ringraziare innanzitutto i vigili del fuoco e i volontari che stanno facendo un lavoro per me eccezionale, veramente grandissimo. Anche se la situazione è veramente brutta, ci sono dei comuni qui che con disabili, con bambini piccoli che da 4 giorni non hanno l'acqua e la luce. Io stessa l'acqua è tornata questa mattina perché io abito in centro, ma la situazione è drammatica, drammatica. Allora io invece volevo fare un appello, non li mandate i soldi con gli sms, perché i soldi vengono assolutamente spesi malissimo, non si sa, l'appello quello lì prima a Radio 24. Alessandra, questo non lo so appunto se i soldi come vengano spesi, mi interessa capire appunto in questo momento la tua situazione, si sente il dramma, la difficoltà. Per fortuna, diciamo, Alessandra, tu, se possiamo confortarci delle poche cose in questo momento, però hai la tua casa, certo, problemi di elettricità, l'acqua, grandi disagi ci sono stati per il maltempo, poi si è aggiunto anche il terremoto. Sì, è difficile stare a casa perché le scosse sono continue. E quindi è la paura, dice Alessandro, non vorrebbe uscire, poi fuori c'è la neve. Certo, uscire fuori di casa anche con la neve, perché... Alessandra, senti, sì. Tieni duro e come diceva il sindaco di uno di quei paesi, anche lui isolato, diceva insomma, dopo tutto questo sapremo affrontare anche le cavallette a primavera. Speriamo naturalmente che non arrivino, Alessandra, ma tu tieni duro, che siamo con te, va bene? Siamo tutti duro, gli abruzzesi sono forti, si dice, sono fortissimi, li conosco, in più tu stai ascoltando la radio, quindi sono contenta che ti facciamo almeno compagnia, eh? E grazie di aver chiamato, Alessandra. D'accordo, grazie a voi. Un abbraccio, ciao Alessandra. Ciao. Raffaella, tu vuoi raccontare almeno di uno degli ospiti le storie che tu hai potuto conoscere? Ma emergono piccole grandi storie, diciamo, di clienti e di personale, diciamo, di questo hotel Rigopiano, che da resort a 4 stelle con vista sul Gran Sasso è diventato una trappola in questo momento. Quelle dei 2 sopravvissuti le abbiamo già accennate prime, l'uno salvato dal mal di testa della moglie, l'altro dal cemento armato del locale caldaia dove si trovava a lavorare. Per quanto riguarda invece i dispersi, sappiamo per esempio la storia della famiglia di Domenico Di Michelangelo, che è un agente di polizia di Osimo, cittadina, bella cittadina marchigiana, che si trovava lì con la moglie Marina, che ha un negozio nel centro di Osimo, e con i figli. Oppure ancora conosciamo le storie di alcuni dei dipendenti dell'hotel al loro primo impiego, giovanissimi, come una cuoca originaria di Chieti, oppure ancora come Emanuele Bonifazi, che tra l'altro è figlio del responsabile della protezione civile di Pioraco in provincia di Macerata. O ancora la storia di un insegnante giovanissima, anche lui, Marco Tanda, 25 anni, che si trovava lì insieme alla fidanzata. O ancora c'era tra gli ospiti un pilota della Ryanair. Piccole storie di persone che casomai si erano concesse questo dei giorni appunto di vacanza in un resort in montagna e che invece si sono ritrovati, diciamo, intrappolati tra la neve e il terremoto, e che appunto in questo momento ha fatto sì che siano ancora tuttora sotto

il fatto di che quando si è girato, che è andato a prendere la medicina alla moglie, ha avuto ha visto tutta questa immagine brutta, perché ieri non è che mi ha raccontato come stamattina, ieri è stato molto sintetico, stamattina mi ha raccontato tutto, poverino, poi lui è una persona che lavora da una vita, la moglie altrettanto, poi stupendi bambini, c'è una famiglia veramente bella, rispettosa, insomma, unita, onesta. Ecco, la famiglia del suo chef, quindi di Giampiero Parete, che è tuttora tra i dispersi, si trovava nella hall, quindi quando c'è stata la slavina? La moglie e i due bambini? Sì. Sì, ma tutti nella hall stavano, tutti. Perché tutti aspettavano questi soccorsi, tranne il manutentore, che è un altro, l'altro che si è salvato perché era in questa stanza. Più che i soccorsi, no? Aspettavano che praticamente veniva lo spazzaneve per andarsene via dall'hotel ieri. Quando ancora non era arrivata la valanga. E volevano andare via, sì. Mm. Erano già pronti, avevano fatto le valigie, tutti. Mm. Pagati i conti, tutto. Ecco. Quindi, professore, secondo lei ci sono stati dei soccorsi, dei ritardi negli interventi, diciamo, dei soccorsi? Guardi, il fatto, sai cos'è? In questa prima fase io ho notato questa anomalia, secondo il mio punto di vista, ma poi il resto, lì la macchina è molto complessa, lì c'è la neve, ce n'era tanta, cioè io ho visto uno spiegamento di forze favoloso intendo nel senso nutrito, abbondante, perché 3 metri di neve non sono pochi, cioè si sono adoperati molto. Questo diciamo che probabilmente, così, professore, c'è stato un primo momento di sottovalutazione quando le è stato detto ma no, lì è tutto a posto, poi si sono resi conto. Sì, perché effettivamente la signora mi ha detto che ha parlato col direttore dell'albergo, l'ha riassicurato che era tutto a posto, ma qui si parlava alle 3 di pomeriggio, 3:30. Io ho chiamato lì alle 5:30, 6:15, ma non mi ricordo quanto. Ecco. E insomma poi si capirà, no, Raffaele? Beh, questo chiaramente sarà tema centrale dell'inchiesta e sicuramente, professore, anche lei sarà chiamato a raccontare per bene come sono andate tutte le cose, perché chiaramente questo è uno snodo fondamentale, sia diciamo soprattutto i tempi dell'arrivo dello spazzaneve. Quindi dovrà ricordare bene gli orari, magari e poi successivamente il discorso dei soccorsi dopo. Ecco, professore, le volevo chiedere, Giampiero Parete, che cosa le ha detto sugli orari delle richieste dello spazzaneve? Ne aveva informazione? Nel senso che... Però non ieri, me l'ha detto, poi oggi mi ha raccontato tutto, che doveva passare alle 3. Non è passato, gli hanno detto passerà stasera alle 7. Sì, questa cosa degli orari delle 15, che era previsto l'arrivo di questo spazzaneve, che poi l'hanno rimandato alle 19 e nel frattempo insomma è successa la tragedia. Professor Quintino Marcella, noi la ringraziamo, adesso la possiamo salutare, grazie. È stato disponibile, grazie mille. D'accordo. Grazie. Prego. Raffaella, abbiamo ancora qualche ascoltatore, poi se vuoi facciamo una chiusura anche di riflessione su questa testimonianza. C'è Sergio da Milano? Ciao Roberta, sono Sergio da Milano. Ciao Sergio. Ho fatto 18 anni il vigile del fuoco. Caspita. Dal 1986 al 2004, quindi sono passato attraverso tutte quelle calamità e quegli interventi di normale routine che fanno i vigili del fuoco tutti i giorni. E volevo fare una considerazione, lo dico con molto rispetto per l'esercito e per tutte quelle forze dell'ordine che intervengono e che ci mettono l'anima. Però i preposti al primo soccorso, ma non solo per una questione di legge, sono i vigili del fuoco, perché per esempio quando si parte, che tu sei in servizio, succede una calamità e si parte e c'è la colonna mobile, una colonna che hanno tutti i comandi provinciali pronta a partire per le calamità, e è fatta di attrezzature che i vigili del fuoco usano quotidianamente tutti i giorni, perché sono carri puntelli, ci sono cesoie, ci sono divaricatori. Ma cosa dici quindi, che in questo caso non c'era l'attrezzatura giusta? No, io dico che sento dire i militari paracadutisti con tutta la buona volontà che ci possono mettere, loro sono addestrati e nella vita quotidiana che svolgono, nelle loro funzioni, certo, non c'è quella del soccorso. Certo, ognuno il vigile in modo del fuoco. No, no, certo, ma questo lo abbiamo chiarito. Sergio, io ti ringrazio moltissimo e scusami, ci dobbiamo lasciare perché abbiamo ancora pochissimo. Abbiamo fatto 2 ore stasera, poi ci sono stati tanti speciali oggi. Sergio, ti ringrazio moltissimo per la tua testimonianza. Chiedo scuse alle altre ascoltatrici e ascoltatori che sono stati moltissimi stasera che non riusciamo a sentire. Visto che abbiamo ancora un minuto, Raffaella, proprio un minuto, io intanto ringrazio in regia e anche con tutte queste ricerche e questi numeri Cristian Goldoni, poi alla parte tecnica c'è Filippo Oreggi. Raffaella, vogliamo chiudiamo chiudere? Facendo un po' il punto della situazione, chiudiamo dicendo che ci sarà una lunga notte di ricerche lì a 1200 metri, quindi nell'hotel Rigopiano, dove ci sono sul ancora Gran sul Gran Sasso una trentina di persone disperse, 4 dei quali sono bambini, e che i soccorritori in mezzo alla neve si stanno facendo varco per cercare di raggiungerle. Al momento 2, come abbiamo detto, sono i sopravvissuti. Le vittime accertate 2 secondo la prefettura, ma in realtà si parla di 4 vittime già, e di sicuro sarà una lunga notte di lavoro e di ricerca e di angoscia soprattutto per i familiari. Grazie Raffaella Calandra, quindi cosa dire, speriamo davvero di svegliarci domani con qualche buona notizia. Abbiamo detto che i soccorsi procedono, abbiamo sentito anche la fatica nell'andare avanti, questa valanga che ha praticamente spazzato e schiacciato l'albergo, però ce la stanno mettendo tutta. Roberta Giordano quindi vi rimanda a domani con la puntata regolare di Effetto Notte alle 21, sperando per l'appunto di avere almeno qualche piccola notizia positiva.